Yeah, des QMC, Resurrexit, figli di, dopo di me tutte imitazioni, a parte i miei fratelli che lo fanno da quel dì, yo, rapper italiano in fondo alle classifiche, nonostante i buoni voti in fondo alle verifiche, in condizioni critiche, caccio rime mitiche, modificando le caratteristiche fisiche della tua strumentazione da professionista. Sono l'artista delicato come un terrorista, di fisso non la reggo tua moglie che bela, ma quando non ci sei lei mi smorza la candela. A buon intenditor due parole camminare, come disse Roberto che te lo dico a fare, pagami sto live ti assicuro che è un affare, ma poi non t'accollare, per favore circolare. Sono sempre quello che in segreto criticavi, mi davi del fattone mentre nel gesso pippavi. Ora fatti un over di pop, over the top, questa rima è come bondage in un sexy show. Non mi tieni più, ho perso le inibizioni, dopo dei QMC sono tutte imitazioni, tranne quei fratelli che lo fanno da quel dì. Inutile che spingi, io non mi scollo da qui. Non mi tieni più, ho perso le inibizioni, dopo dei QMC sono tutte imitazioni, tranne quei fratelli che lo fanno da quel dì. Inutile che spingi, io non mi scollo da qui. Queste per le anime che non si sono arrese, che spingono nel grigio entro terra genovese. Raga, dove siete? Fatevi sentire, come un pornatore che è sul punto di venire. È un'ondata anomala di animali di elite, che gridano dai muri o si esprimono sul beat. C'è anche chi è ancora di ritorno dal trip, tutta gente fiera che ti strappa via gli slip. Solo con lo sguardo, tieniti che parto, se il battito si accelera non è mica un infarto. È la buona vibra che ti trova e ti cattura, roba da paura d'ottima manifattura. Messi da ricovero, tieniti il rimpianto. Povero, sono anni che lo spiego, non capisci? Povero, resta dove sto in questa strana situazione, a metà strada tra la terra e la cintura di Orione. Non mi tieni più, ho perso le inibizioni, dopo dei QMC sono tutte imitazioni, tranne quei fratelli che lo fanno da quel dì. Inutile che spingi, io non mi scollo da qui. Non mi tieni più, ho perso le inibizioni, dopo dei QMC sono tutte imitazioni, tranne quei fratelli che lo fanno da quel dì. Inutile che spingi, io non mi scollo da qui. D-E-K-O, questa va a tutti i ragazzini che si credono di vivere in America, di avere i macchinoni, hip hop non è questo, questo è il Genova ragazzi. Cambiate atteggiamento, scollatevi da Facebook, yo. Non basate i vostri tape sulle visualizzazioni, l'hip hop è un'altra cosa, stai al tuo posto, idiota.